Storiacce di Raffaella Calandra. Il destino bussa alla porta e in Germania lo ha fatto di sicuro diverse volte, sempre il 9 novembre, il giorno fatale del paese, nel bene e nel male. Oggi mi sento molto fortunato perché so che il muro non c'è più, che gli uomini possono vivere come desiderano, che non sono più prigionieri, che possono fare quello che vogliono. Ai tempi del muro non era possibile. C'erano le cose che si potevano e quelle che non si potevano fare. Ho sperimentato personalmente come sia difficile vivere così. E per questo è una grande gioia per me la scomparsa del muro da 30 anni. Und deshalb die große Freude für mich jetzt, dass die Mauer seit 30 Jahren schon nicht mehr steht. Mentre camminiamo tra la folla alla porta di Brandeburgo, sotto il tappeto di striscioline colorate con i desideri di migliaia di tedeschi, Peter Bibier tira fuori dallo zaino una vecchia borsa di pelle con tutti i segni del tempo. All'interno una sua foto, vecchia di almeno 40 anni, con un numero di matricola in mano. È quello che gli fu consegnato al momento dell'arresto, condannato non tanto e non solo per aver lasciato la DDA, quanto per aver aiutato altri tedeschi a fuggire dall'ex Germania dell'Est verso la libertà. Habe zunächst versucht zu flüchten. 1968 war ich in der Tschechoslowakei. Provai più volte a scappare. La prima nel 1968, durante la primavera di Praga, in Cecoslovacchia, per cercare di arrivare in Austria. La seconda provai a raggiungere la Germania occidentale. Poi, un'estate da Danzica, in Polonia, provai ad imbarcarmi su una nave. Tentai infine di raggiungere la Turchia dalla Bulgaria, ma neppure in quel caso andò bene. E proprio non riuscivo a trovare il modo di lasciare la Germania sovietica. Poi nel 1971 ebbi una grande fortuna. Un amico, che era a conoscenza della mia intenzione di fuggire, mi indicò un uomo che poteva aiutarmi. E allora decisi di parlargli. Ma ovviamente è stato difficile. Non ci conoscevamo. Non sapevamo se potevamo fidarci l'uno dell'altro. E poi un giorno mi disse che poteva aiutarmi e così è stato. Oltrepassai il confine con l'Ovest nascosto in un armadietto. E poi l'anno successivo fui condannato e imprigionato per aver aiutato altre 11 persone a lasciare la DDR. Und dann bin ich verhaftet worden und kam ins Gefängnis. Man war irgendwie trunken vor Glück. Ja, man lachte und weinte durcheinander. L'ubriacatura di gioia e fortuna che tutti i berlinesi provarono quel 9 novembre 1989 molto poggiava sulla consapevolezza soprattutto di cosa fosse vivere all'interno della Germania sovietica ai tempi della Stasi. Poggiava molto sulla memoria delle vittime. Dei troppi uomini e delle troppe donne, come ha ricordato direttamente la cancelliera Angela Merkel, che hanno perso la vita cercando di riconquistare la libertà. Nei 28 anni di storia del muro c'è chi è scappato in mongolfiera, la cui storia avete sentito nella prima puntata di Storiacce, c'è chi ha provato a nuoto ad arrivare sulla sponda occidentale come la prima vittima. Qualcuno si costruì un improvvisato sottomarino, ed altri passarono attraverso complessi tunnel sotterranei. Qualcuno provò a sfuggire ai controlli nascosto nel portabagagli delle auto, qualche altro nascosto nei mobili. E le loro tracce restano nelle teche del museo del muro, in Bernauer Strasse a Berlino, in cui è rimasta anche come imprigionata quella sensazione di angoscia che dominava nelle case di Berlino Est, di sentire cioè il fiato della Stasi sempre sul collo, nella consapevolezza che le loro vite erano spiate a volte anche da molto vicino, come è stato per Peter Koip. Also meine Eltern haben 1975 einen Antrag auf Ausreise in die Bundesrepublik gestellt. I miei genitori avevano presentato nel 1975 una richiesta di uscita per avere il permesso di uscire dalla DDR e questo ci rese come dei lebbrosi. Io ho dovuto lasciare la scuola dopo la decima elementare e per anni ho provato ad arrangiarmi a fare un lavoro di insegnante come compositore, ma per me la vita nella DDR era estremamente difficile. e dopo 6 anni mi sono deciso a tentare la fuga. Volevo provare attraverso la Cecoslovacchia ad arrivare in Ungheria e da lì superare il confine con l'Austria. E per questo suo tentativo di fuga è stato imprigionato dalla Stasi e tenuto in cella a Dresda, è così? I prigionieri politici venivano tenuti in isolamento, nessun contatto con altri detenuti o con nessun altro, non ricevevo alcun tipo di informazione, niente di niente, non eravamo neanche chiamati per nome, ma con un numero. Io non ho avuto per mesi alcun contatto con la mia famiglia, non ho avuto alcun avvocato, insomma i minimi diritti legali che in una democrazia avresti. Hatte keinen Kontakt zur Familie 2 Monate lang. Es war, ich habe keinen Anwalt bekommen. Das heißt also elementare Grundrechte, die man heute in einer Demokratie. Dopo 3 mesi in cella, 10 mesi di processo, sono stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 100.000 marchi della Repubblica Federale Tedesca. Poi ho anche scoperto, dopo la sua morte, che anche mio fratello era stato un informatore segreto della Stasi. Ich habe nach dem Tod meines Bruders erfahren, dass auch er inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit war. Oggi la sede della vecchia Stasi in Pankow a Berlino è una delle principali attrazioni turistiche, con i suoi strumenti sofisticati di spionaggio. Lì Peter Bibier, ora 70enne, è stato imprigionato e ha fatto passare molto tempo prima di tornarci in quel luogo e prima di riuscire a rielaborare e raccontare la sua vicenda. Una storia di fughe, di prigionia, ma anche di reciproco aiuto, una storia più attuale di quanto non si creda. Vor dem Gebäude stehe, ich bin nach Pankow gegangen und habe vor dem Gebäude gestanden. Sono stato a Pankow, davanti alla sede della Stasi, dove ho trascorso un anno in cella. E ovviamente i ricordi riemergono. È stato un momento difficile, ma anche una gioia, nella consapevolezza che la Stasi non esiste più e gli uomini non devono più avere paura. Un miscuglio di gioia e paura. Ma ora la gioia prevale. E proprio la mia esperienza mi ha portato ad aiutare altre persone a conquistare la loro libertà. Proprio come io sono stato aiutato. Sono stato fiero ed orgoglioso delle mie scelte, anche se sono stato in prigione ancora per questo. Ma per me era evidente che se potevo aiutare, dovevo aiutare. Und das war für mich selbstverständlich, wenn ich helfen kann, dann helfe ich. In che modo lei ha aiutato queste 11 persone a scappare? Es war so, dass der Mann, der mich gefahren hat im LKW, mit dem l'ho raccontato all'università nella parte ovest della Germania cosa significasse vivere nella DDR. Ho raccontato anche di come fossi riuscito a scappare e dell'aiuto che avevo ricevuto. All'epoca si avvicinò uno studente che mi chiese se avessi potuto aiutare la sua fidanzata che viveva ad est a venire ad ovest. Mi rivolsi allora alla stessa persona che mi aveva aiutato. Mi dette la sua disponibilità, ma lui non trasportava più con i suoi camion quei mobili, come allora. E allora come è andato a finire? Come è riuscito a dare una mano ad altri tedeschi dell'est perché lasciassero la DDA? Quell'uomo aveva un altro lavoro. Trasportava un tank con bitume, si usava nella DDR, e si spostava da est a ovest. Questo tank si è fermato in una stazione di servizio e lì questi uomini si sono nascosti tra il bitume. Era tutto sporco e scuro dentro e così la polizia ai controlli non si rese conto di nulla. Fu facile aiutare queste persone ad ottenere la libertà, ma poi successe un incidente. Una signora che viveva ad ovest mi chiamò perché aiutassi il figlio rimasto ad est. Io le dissi di sì, ma il ragazzo aveva confidato i suoi progetti di fuga ad un amico, che a sua volta l'aveva detto ad altri, finché la notizia non arrivò ad informatori della Stasi. Costoro seguirono gli spostamenti del padre del giovane e una volta arrivati al confine fui catturato. Auf der Ostseite an der Grenze wurden wir deshalb verhaftet. Es war verraten. In tutti questi anni le è mai capitato di incontrare di nuovo quelle persone che aveva aiutato a fuggire? Nicht alle. In questi 11 anni ho incontrato spesso questa signora che fu responsabile della mia cattura, diciamo così, e i figli che hanno poi studiato. E poi anche un'altra signora, ho conosciuto e visto i suoi figli. E ogni tanto ci sentiamo e vediamo. È rimasto un legame speciale tra noi. Con altri ho perso i contatti, mentre ero in prigione. La storia di Peter Bibbie non è solo un reperto d'archivio, non è solo una storia emersa dai polverosi schedari della Stasi o da documentari della vita al di là del muro. La sua storia porta Peter Bibbie a capire molto più di altri le vicissitudini dei migranti che attraversano ogni peripezia pur di riuscire a scappare da regimi dittatoriali e a conquistare la libertà. Ed è anche per questo che lui considera importante ora raccontare la sua storia, come fanno anche altri testimoni di quella che fu la DDA. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24. La passione si sente anche in podcast. Storiacce. Ich habe den Fall der Mauer selbst erlebt. Sono andato con un amico in Erich-Heine-Straße. Un amico che come me era stato in prigione per aver aiutato altri ad uscire da Berlino Est. Siamo arrivati lì dopo le 9 di sera e abbiamo visto man mano tutta quella folla arrivare da Est, a piedi e con le auto. Abbiamo tutti pianto e riso di gioia. Io ho pianto dalla felicità. E pensato che quei 5 anni in prigione non erano stati inutili. E forse anche io ho un po' aiutato la caduta del muro. E per questo è stato il giorno più importante della mia vita. Per me è una delle più grandi gioie del mio vita. Non solo per lui, ma per gran parte dei tedeschi, quello è stato il giorno più importante e più felice della vita. Il giorno della caduta del muro, ma anche delle illusioni e delle speranze per una riunificazione che ora invece, 30 anni dopo, tutti considerano ancora incompiuta. L'ubriacatura di gioia era figlia anche della fine di quella cappa di diffidenza, di sospetto e di angoscia trasmessa dalla Stasi, per cui ciascuno, ricorda ancora questo testimone scappato dall'ex Germania dell'Est, Peter Bibbie, aveva sempre interrogativi su chiunque avesse di fronte. E l'abbiamo sentito anche dal racconto nella prima parte di un altro testimone, Peter Koip, imprigionato dalla Stasi, per poi scoprire che anche il fratello era un informatore. Ich habe gelebt in der DDR in der Zeit wo es die Mauer noch nicht gab. Ho vissuto nella DDR prima del muro. Si stava bene allora, perché i controlli non erano così stringenti, la gente poteva muoversi ancora liberamente. E poi con la costruzione del muro nel 1961, la libertà di colpo è sparita. Il regime diceva cosa gli uomini potevano o non potevano fare. Lo Stato controllava tutto. Non era possibile criticare, né esprimere opinioni, né viaggiare. La cosa peggiore era questa diffidenza, insinuata dal governo tra le persone. E nessuno poteva confidarsi con un altro, perché ciascuno aveva sempre il dubbio che il suo interlocutore fosse un informatore della Stasi. Questa diffidenza ha reso la vita nella DDR molto pesante. Besonders dieses Misstrauen hat das Leben in der DDR sehr schwer gemacht. Lo Spiegel ha lanciato un sondaggio tra i lettori per raccogliere le loro valutazioni, ma tutte le ricerche, come quella recente di Open Society, confermano un crescente pessimismo su questo aspetto, sintetizza il direttore Goran Bordischi. There was a bit of a surprising pessimism when it comes to how much people believe in democracy as a system of organizing society. Un pessimismo nato all'ombra di un muro che non esiste più nella sua anima di cemento, ma che dopo 30 anni, analizza lo scrittore Peter Schneider, sopravvive invece nelle teste dei tedeschi. Anche i giovani sentono una grande differenza fra di loro e questo Ovest, che è diventato sempre più grande, perché dopo la caduta del muro ancora sono fuggiti dalla RDA all'Ovest 3,7 milioni. La maggioranza erano gente tra 15 e 30. Allora è tutta una generazione che adesso manca. Ci siamo a 30 anni dopo la caduta del muro e lei ci ha appena detto di sentire che sopravvive ancora questo muro ideale. È diventato più grande in certi modi, perché si può dire del momento della caduta del muro, naturalmente c'erano tante speranze, ma queste non ci sono più. Una certa illusione è andata via, però dobbiamo anche dire che economicamente abbiamo fatto anche nei nuovi stati tanti progressi. Il dislivello dei salari tra Germania Ovest e Germania Est adesso è 92% verso 100%, però il dislivello della produttività è 75% verso 100%. Ma se lei dovesse dire in che cosa è ancora percepibile questa differenza che anche le nuove generazioni sentono tra Ovest ed Est? È ancora molto percepibile. La metà dei cittadini di Germania Est dicono che si sentono cittadini di secondo grado. È un fatto come sono visti, come si sentono visti dalla Germania Ovest, come si sentono trattati. Si parla dei perdenti culturali, non i perdenti economici. Questa gente non si riconosce più nella lingua che parlano gli altri, diciamo quelli che governano. Un muro nella testa dei tedeschi, nell'attesa che il destino torni a bussare ancora alla porta della Germania per una riunificazione che solo tra 50 anni ancora, secondo la cancelliera, potrà dirsi compiuta. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. In regia Gianmarco Ferronato. Potete riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce e seguiteci su Instagram e Twitter all'account @RaffCalandra.